Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, ultimamente si fa un gran parlare sulla modifica di alcuni articoli della Costituzione. A mio parere, ogni modifica andrà a beneficio solo di lobbies o partiti. Credo che l'unico articolo da modificare sia il 67, che recita: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Questo articolo probabilmente fu scritto dai padri costituenti per salvaguardare la libertà di pensiero dei parlamentari e nello stesso tempo impedire ingerenze e abusi da parte di risorgenti regimi. Purtroppo i nostri parlamentari l'hanno interpretato come possibilità di promettere mari e monti ai propri elettori, salvo poi non mantenere le promesse fatte in quanto senza vincolo di mandato. Si verifica più volte il fatto che il candidato eletto non rispetti nemmeno il programma del proprio partito, addirittura dissociandosi dal partito stesso. Per contrastare questa consuetudine propongo una mia personale modifica all'articolo 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni vincolato al programma del partito in cui si è candidato sino alla fine del mandato. Giorgio. Caro Giorgio, lei mette in luce molti problemi reali che hanno contrassegnato la vita politica degli ultimi anni, ma mi permetta, il rimedio da lei proposto rischia di essere peggiore del male. Se si introducesse infatti un vincolo di mandato, si darebbe ancora maggior potere ai partiti e si toglierebbero autonomia e soprattutto responsabilità ai parlamentari. È peraltro del tutto normale, basta pensare all'esperienza di ciascuno di noi, che il voto venga dato non tanto sulla base delle promesse e dei programmi, quanto sulla base di un bilancio di quanto è stato fatto in passato e su una valutazione di credibilità dei leader più che dei candidati. Il vero problema, secondo me, è quello di ricreare un collegamento diretto tra elettori ed eletti, abolendo le liste bloccate che sono previste dall'attuale legge elettorale e introducendo di nuovo le preferenze in modo da poter giudicare in maniera formale il comportamento dei parlamentari. Si tratta di sviluppare quel sottile equilibrio tra il ruolo importante dei partiti e la responsabilità, ugualmente importante, dei singoli eletti. Senza dimenticare che al di là delle regole, quello che è necessario recuperare con forza è quella dimensione etica della politica che mette in primo piano la crescita complessiva e il bene comune rispetto agli interessi fin troppo personali che tanto spesso guidano le decisioni politiche. Caro direttore, non condivido le cose dette da Roberto Saviano alla giornalista del giornale spagnolo El País. Ha dichiarato che l'Italia è un paese feroce dal quale vorrebbe andarsene. È vero, l'Italia è un paese feroce. Certo, ognuno ha il diritto di pensare a una vita diversa, non blindata e oppressa dalla persecuzione della criminalità. Ricordo una malinconica fotografia di Giovanni Falcone affacciato alla finestra del retro della sua abitazione, dalla quale non poteva uscire se non protetto dalla scorta. La vita blindata è dura, durissima, specialmente quando si hanno meno di 30 anni e si ha diritto naturale alla più assoluta libertà. Certo, l'Italia è un paese in gran parte controllato dalle mafie che hanno avuto e continuano ad avere tanto potere, perché complici e alleate a grossi pezzi dello Stato. Nel governo italiano siede un sottosegretario inseguito da un mandato di cattura per collaborazione con la Camorra, appoggiato dal Presidente del Consiglio e blindato da un Parlamento che lo protegge dall'arresto. L'Italia da tempo non è più una democrazia, ma un'oligarchia controllata da un ceto di professionisti della politica che si è impadronito di tutte le cariche istituzionali, ricavandone di che vivere lautamente. Tutte le amministrazioni pubbliche, dai consigli di quartiere al Senato, sono gestite da un ceto politico stipendiato e ricco di privilegi. Il peso del ceto politico e parapolitico sull'erario italiano è enorme e aumenterà ancora con il federalismo. Inoltre, ed è cosa che Saviano non rileva e forse non gli interessa, l'Italia è nelle mani di una Confindustria che con la complicità dei sindacati ha spogliato i lavoratori di quasi tutti i loro diritti e a Pomigliano voleva inaugurare l'era dell'operaio mulo ridotto a macchinario vivente. L'Italia ha la legge Biagi per la quale 6 milioni di giovani sono stati condannati al precariato e ai bassi salari. Salari bassi fino all'infamia di pagare ad un giovane nemmeno 400 euro al mese per vivere. L'analisi che fa Saviano della realtà italiana è parziale, ma non importa. Ha dato un contributo importante diventando l'icona della lotta alla Camorra. Proprio per questo, per il fatto di essere diventato una star mediatica a livello mondiale, non ha il diritto di esprimersi come ha fatto con El País. Se vuole andarsene dall'Italia, vada pure, ma senza annunziarlo in Mondo Diffusione. Se ne vada in silenzio, sparisca dalla circolazione e non lanci un messaggio di irredimibilità del paese. Altri resteranno a fare battaglie senza quei riflettori che lui ha quasi monopolizzato. È di questi giorni il coraggioso libro Agenda Nera di Giuseppe Lobianco e Sandra Rizza, che esplora le circostanze del perverso intreccio mafia-stato, facendo nomi e cognomi. Nomi e cognomi che non si leggono in nessuna pagina del fortunatissimo romanzo Gomorra. Una cosa è fare la guerra alla mafia, ben altra cosa è fare la guerra al mafioso. La guerra al mafioso è sempre cruenta. La guerra alla mafia a volte sì e a volte no. A nessuno si può chiedere di diventare eroe. Vorrei però ricordare il martirio di giornalisti come Giuseppe Fava, Giuseppe Impastato, Mauro Rostagno, Giancarlo Siani e Beppe Alfano. Oltre a quei tantissimi altri sono caduti per aver testimoniato la verità e lottato per un'Italia libera dall'oppressione mafiosa. Questi martiri per un'Italia civile e libera che ancora non c'è. Questi martiri per un'Italia civile e libera che ancora non c'è hanno avuto il coraggio di intervenire su interessi specifici del potere mafioso. Non vorrei che per trattenere Roberto Saviano in Italia dovessimo fare di lui un uomo politico, magari per attivare il ricambio di quella classe dirigenziale che lo stesso scrittore ha reclamato nell'intervista a Il Paese. Vorrei chiudere ricordando la vita blindata di Roberto Scarpinato e di quanti assieme a lui conducono una lotta mortale alla mafia. Invito a leggere il suo bellissimo e istruttivo libro Il ritorno del principe, nel quale viene spiegato perché l'Italia è quella dalla quale oggi Saviano vorrebbe fuggire. Pietro. Cara Radio 24, sono assolutamente contrario alla cessione dei beni demaniali ai comuni, poiché diventeranno preda di speculatori e palazzinari, fino a infrangere la legge col benestare delle amministrazioni locali e non. Le faccio l'esempio della mia città. Monza è governata da 3 anni da una giunta di destra che ha trasformato in deroga al PGT quasi tutte le aree a verde pubblico in aree edificabili al massimo della volumetria. C'è addirittura un progetto di costruire all'interno del parco di Monza una serie di serre ed edifici polifunzionali per 100.000 metri quadri in vista del famigerato Expo 2015. Dulcis in fundo, il comune ha ceduto la Villa Reale di Monza ai privati, in concessione per 30 anni in cambio di una parte dei soldi per il restauro. Ecco quindi alcuni esempi di come finiranno i beni demaniali in mano ai potenti palazzinari che hanno tantissimo denaro e possono condizionare le scelte politiche dei comuni, che sono ormai alla canna del gas. Giampaolo. Cara Radio 24, se ci sono beni che lo Stato non sa far fruttare o che sono un costo, tanto vale cederli. Altri forse faranno di meglio. Personalmente venderei anche alcune opere d'arte che languono nei sotterranei dei musei. Almeno qualcuno li guarderà. L'arte nascosta è come fosse inghiottita dal Vesuvio. Alessio. Caro direttore, vorrei segnalare un caso di cattivo utilizzo dei beni pubblici. Siamo a Camogli, sulla riviera Ligure, ai piedi del promontorio di Portofino. Un paesino che è riuscito a difendere nel tempo la sua bellezza e la sua armonia dalle massicce speculazioni edilizie. Qualche anno fa il comune acquistò la zona dello scalo ferroviario, già adibita in parte a parcheggio. Ora il comune ha venduto questa zona a un gruppo privato e ha già approvato un progetto che prevede un totale stravolgimento di tutta la zona circostante. È prevista la costruzione di 4 palazzine di 4 piani ciascuna, un grande parcheggio interrato, l'abbattimento dell'unico giardino pubblico di Camogli e la revisione della viabilità. Sarà stridente il contrasto tra questa zona di costruzioni nuove con il nucleo degli antichi palazzi e del teatro ottocentesco del centro. Tutto questo per costruire palazzi di cui la popolazione locale non ha assolutamente bisogno e che sono destinati a diventare seconde case vuote per la maggior parte dell'anno. La gran parte degli abitanti di Camogli è decisamente contraria al progetto. Si è formato un comitato che ha organizzato manifestazioni civilissime e pacate che l'amministrazione comunale ha boicottato in tutti i modi, senza mai accettare un confronto aperto con la popolazione. Questo è un esempio dei tantissimi che abbiamo sotto gli occhi. È una politica miope, basata sul profitto immediato, ma senza guardare lontano e andando nella direzione contraria a quella che sarebbe logica, specialmente da queste parti, dove il turismo è una risorsa preziosa. Oltretutto, non si è tenuto minimamente conto delle richieste della popolazione locale, che ha altre necessità, altre priorità. Mario. Caro direttore, c'è una cosa che mi lascia perplesso. Spesso il telegiornale comunica con enfasi la notizia che i carabinieri hanno arrestato Fricchio Perella, uno dei 100 latitanti più ricercati d'Italia. Interviste e plauso delle istituzioni a ruota libera. Dopo alcuni giorni veniamo informati, con pari rilievo, che la polizia ha ammanettato Giuseppe Pizzefichi, anch'egli uno tra i 100 latitanti più pericolosi d'Italia. Resoconto confilmato e complimenti del ministro. Stesso cliché quando la Guardia di Finanza ferma Michele Sempronio, uno dei 100 malavitosi più violenti d'Italia. Io mi chiedo, questi benedetti 100 non finiscono mai? Luigi. Cara Radio 24, l'acquazzone è passato, ma ancora piove e le condizioni meteo dell'economia hanno evidenziato in modo inequivocabile come le imprese che hanno sofferto in maniera più evidente siano state quelle a maggiore grado di specializzazione. Questo fenomeno colpisce soprattutto i distretti ad alto grado di specializzazione come quelli veneti, meno i più flessibili ed emancipati distretti del centro-sud. Fanno da contraltare a questo fenomeno i casi di colossi parastatali come Fincantieri, Selex e Alenia, o le piccole e medie imprese campane che, pur avendo accusato il colpo, hanno potuto far fronte alla crisi grazie alla loro capacità di sapersi approvvigionare di molteplici commesse, anche se dai volumi inferiori. Mi chiedo se esista un modello applicabile ad ogni bizza del tempo, cioè ad ogni pezzetto della curva del ciclo economico, o gli imprenditori saranno sempre costretti a reinventare la loro azienda a seconda delle condizioni meteo dell'economia. Alessandro. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci. We'll be right back.